Buongiorno a tutti, facciamo oggi una lezione straordinaria sulle halachot che riguardano Purim. C'è scritto nell'Halakha che ai tempi di Mordecai e Esther, scritto nella Megillah in realtà, ci si è riuniti, gli ebrei si sono riuniti tutti quanti il 13 di Adar per difendersi dai nemici che avevano in quel giorno la possibilità di mano libera di fare quello che volevano fare, e avevano bisogno della grande misericordia divina per non cadere nelle mani dei nemici, e si sono riuniti in quel giorno pregando e digiunando, supplicando a Kadosh Baruch Hu. Nello stesso modo che anche, ci ricordiamo, è scritto nella Torah, che Moshe Rabbeinu ha pregato nel giorno in cui, c'è scritto anche a digiunato, nel giorno in cui gli ebrei hanno lottato contro Amalek, quando Amalek è venuto ad attaccare il popolo ebraico, grazie alle tefilot di Mosè, gli ebrei sono riusciti a sconfiggere Amalek. E in quella occasione, in Persia, il 13 di Adar, HaKadosh Baruch Hu ha sentito ed ha esaudito le richieste dei nostri avi, ha ricevuto, ha accettato la loro teshuva, il loro ritorno verso Hashem, e in quel giorno in cui avrebbero dovuto i nemici, mai sia annientare il popolo ebraico, è successo il contrario, che gli ebrei sono riusciti, difendendosi, a sconfiggere, uccidendo 75.000 nemici. A parte quelli di Shushan stessa, questo è fuori da Shushan, in tutte le province del Re Ahasverosh, che è successo così come è descritto in dettaglio nella Megillah, poiché la nostra forza non è nella forza fisica, non è nell'esercito, è nella mano di Hashem. E per questo motivo è rimasta l'usanza di digiunare in questo giorno del 13 di Adar, in tutte le comunità ebraiche del mondo, in memoria del miracolo che è accaduto in quel giorno, in merito di quella di Teshuvah e di quel digiuno. E noi lo chiamiamo questo digiuno Taanit Ester. Ci sono diversi motivi perché si chiama Taanit Ester. Non è così chiaro che Ester abbia digiunato in quel giorno. C'erano altri digiuni che ha fatto Ester prima di andare a vedere Ahasverosh l'anno precedente, e adesso non entriamo in tutta questa discussione. In generale, il 14 e il 15 di Adar, cioè che questi si chiamano i giorni di Purim, Yemei HaPurim, i giorni di Purim, è vietato in questi 2 giorni fare l'elogio funebre, quello che si fa normalmente a un funerale, è vietato digiunare in questi 2 giorni per tutti. Sia per chi festeggia Purim il 14, come la maggior parte di noi, che per chi festeggia Purim il 15 di Adar, come si fa nelle città che erano cinte Ah, sì, dalle mi mura ricordo questa cosa. dai giorni di Yoshua, come per esempio Yerushalayim. A Yerushalayim Purim si festeggia, questo vedremo un po' più avanti la motivazione, si festeggia il 15 di Adar, ma in tutti i luoghi entrambi i giorni sono festivi, almeno un po' fino a questo punto che è vietato digiunare e fare appunto il Hesped. Se appunto, come dicevamo prima della lezione, dopo la Tefilah, se il 13 di Adar, giorno in cui normalmente c'è il digiuno di Ester, viene di Shabbat, allora si anticipa all'11 di Adar, che è giovedì. Questo è un digiuno non tra i più rigorosi, quindi una donna incinta o che allatta è esente dal digiuno di Ester. A differenza di digiuni più rigorosi come Tisha B'Av, che lì tutti devono digiunare, in un digiuno di Ester è considerato meno rigoroso, e anche altre situazioni, per esempio se c'è una persona che è molto debole, anche se non è proprio malata, se è molto debole, che può essere considerato malato, non grave, ma un po' ammalato, diciamo, anche gli è permesso mangiare. Inoltre, ovviamente chi è proprio malato non deve fare questo digiuno, anche se si tratta di un mal di testa o di un... si può alleggerire, ma anche nell'alleggerire non bisogna fare un banchetto, chiaramente. Se uno ha bisogno di mangiare perché sta male, mangia, ma non fa chissà che cosa, per rispetto comunque che è un giorno di digiuno. Un'altra halakha, e tra l'altro chi è un po' malato e quindi la halakha dice che non è tenuto a digiunare il digiuno di Esther, non solamente non è tenuto a digiunare, ma addirittura è scritto nella halakha che gli è vietato digiunare, cioè non ha il permesso di essere rigoroso con sé. Stiamo parlando in questo contesto del digiuno di Esther, non bisogna fare paragoni ad altri digiuni che può essere diversa la halakha. Tra le altre cose c'è scritto che anche chi ha problemi solamente per un dolore agli occhi, c'è scritto un problema agli occhi, allora già è esente dal digiuno digiuno di Esther. Ma quelli che sono sani, uomini, donne, non devono essere separati dal pubblico e devono fare il digiuno. Anche chi sta viaggiando, magari dice, ah, sto viaggiando, allora sono... No, deve cercare comunque di fare il digiuno. Allora, appunto, abbiamo detto, quando il digiuno viene di Shabbat, non si fa il digiuno di Shabbat, si anticipa a giovedì. Allora, nel caso che qualcuno si è sbagliato perché ha visto la data, non pensava che era il digiuno di Esther e ha mangiato nel giorno di giovedì al quale è stato anticipato il digiuno. Allora è bene recuperare e fare il digiuno l'indomani, venerdì, se per sbaglio ha mangiato giovedì e non ha fatto il digiuno. Una persona che si è, grazie a Dio, sposata, Khatan, Kala, sposi, che si sono sposati entro la settimana viene il digiuno di Esther, cioè il digiuno di Esther cade nei 7 giorni Shivat Yemei Amishtei, 7 giorni del festeggiamento del matrimonio, in cui si dicono le Sheva Berachot, eccetera. Allora, in quel caso, gli sposi non fanno il digiuno di Esther. Ok? E questo vale anche per un'altra situazione gioiosa, che non è il matrimonio. Per il matrimonio vale solo per gli sposi. Non per il matrimonio stesso, anche nella settimana del matrimonio che cade il digiuno di Esther, non devono digiunare. Però, nel caso di una Milah, ci sono 3 persone nella Milah che si chiamano Baalei HaBerit, coloro che sono i festeggiati della Milah. Chi sono? Il bambino, no, scherzo, il bambino non Infatti il rientra. bambino stavo dicendo. No, no, era una battuta. Il bambino è chiaro che non digiuna. I I tre. genitori. I tre Baalei HaBerit sono Genitore e il sandak. il padre, il Sandak, cos'è il Sandak? Lo tiene. Quello che tiene il bambino, Il padrino. e il Mohel, anche il Anche il Mohel. I Moele. genitori non dobbiamo dire la madre, perché la madre appena partorito è Sì, chiaro che non deve non può digiunare. stare. È già fuori per il suo motivo. Sì, non è per la Milà, è perché è una donna che è partoriente, probabilmente allatta pure, quindi comunque... Baalei HaBerit sono il padre, il Mohel e lo Sandak. Queste sono le persone che, anche se il digiuno dovesse venire scusate, se la Milah venisse il digiuno di Esther, loro sono esenti dal digiuno. Non solamente quando Esther viene il digiuno anticipato, anche quando è il giorno stesso, che viene il 13 di Adar, loro sono esentati dal digiuno perché è considerato per loro festivo. Scusa, mi sono perso un pezzo. Il padre perché? Perché il suo figlio fa la Milah. Esente. Non ho Esente capito. dal Qual è la digiuno domanda? perché Ma anche si la trova. madre è la La, madre. sì, Ma la la madre madre comunque non è digiuna. partoriente. Ah, perché partoriente. Eh sì. Ok, Sì, ok, ok. Allatta, partoriente, quello sì, sì. che è debole. Questo di nuovo riguarda il digiuno di esterno, Sì, sì, riguarda sì. altri digiuni. C'è chi dice nell'Alakha che se non ci sono 10 persone che stanno facendo il digiuno al Bet Knesset quando si fa Tefillah, non si legge la parashah del digiuno. Cos'è la parashah del digiuno? Parashah è quando c'è un digiuno, noi leggiamo il Sefer, anche se non è lunedì o giovedì, si legge la parashah di Vayechal Moshe, la descrizione della Tefillah che fece Moshe quando gli ebrei fecero il vitello d'oro e lui chiese il perdono di HaKadosh Baruch Hu. Questo per risvegliarci alla Teshuvah, perché il giorno di digiuno è sempre e soprattutto, più che privarsi dal cibo, è un giorno di risveglio verso la Teshuvah, ritorno verso HaKadosh Baruch Hu. Esistono delle opinioni secondo le quali, se non ci sono 10 persone che stanno facendo il digiuno, non si legge Vayichal, non si legge questa parashah speciale, e non si dice nella ripetizione della Amidah, che c'è un'aggiunta che solo l'officiante dice nella ripetizione, che si chiama Anenu, una tefila speciale, rispondici a Kadosh Baruch Hu, Anenu, Quella di Kippur. è simile. Non si dice secondo questa opinione. Però non tutti sono d'accordo e la Halakha segue la maggioranza, che dicono che bastano 6 persone, la maggioranza del Minyan, che stanno facendo il digiuno per rientrare nella funzione del digiuno. Quindi, Sei sia come? per leggere il Sefer che Esattamente, per la lettura del Sefer e la per l'intento della recitazione di Anenu, cioè della Tefillah particolare nella ripetizione del digiuno, sono sufficienti che ci sia Minyan, e tra del Minyan la maggioranza, quindi Ah, sei. ecco. Cioè 10 sempre. Ovviamente servono 10 10 persone per c'è leggere cioè... Sefer, no? Ok. Normale. Però di questi 10 serve che la maggioranza siano a digiuno Sì. per poter fare la funzione del digiuno, se no è una presa in giro. Stiamo Certo. facendo la funzione del digiuno e non abbiamo neanche Chi una manca? maggioranza di Minyan che stanno facendo questo digiuno. Ok? Quindi se non c'è la maggioranza non si tira fuori il Sefer per leggere Vayichal e non si dice Anenu nella ripetizione. E quindi se dovesse essere lunedì o giovedì, come quest'anno che Tanit Esser viene giovedì, se non ci sono 6 che digiunano, invece di leggere la parasha del digiuno, si Sarà legge la normale. parasha normale della parasha della settimana, come se fosse un giovedì normale. Sì? No, beh, basta che siano a digiuno fino a quel momento, poi se uno dopo mangia, dopo è uguale. Quello è un altro discorso, Fino a quel certo. momento devi stare a digiuno. Almeno, certo. Rav, io ho una richiesta. Sì, qual è la richiesta? In caso di lutto. Caso di lutto, sì. Kippur Mia madre è morta il giorno di Kippur. o di Di Purim? Purim. No, pardon, di Purim. Sì, non è un lutto adesso, è No. una ricorrenza. Sì, no, ma io dico nel giorno Sì. si direvano Teilim, si deve fare tutta. C'è un sacco di preghiere là. A Purim che si può fare Allora, nel giorno della ricorrenza, lì? Non della ricorrenza, io dico il giorno stesso. il giorno in cui è Sì, accaduto? sì. Beh, il giorno in cui è accaduto, se il funerale è avvenuto il giorno stesso, non si fa tutto quello che si fa normalmente. Si evitano alcune cose perché, visto che è festivo, anche se fosse Hanukkah o Purim, ci sono alcuni aspetti del funerale che non si recitano. Hesped, Tzidukadin, ci sono alcune cose che non si dicono proprio perché è festivo, quindi è più breve la Perché funzione. noi abbiamo l'obbligo di entro il brevissimo tempo la sepoltura. Sì, quello si fa assolutamente. Si fa la sepoltura, ma nella funzione, Sì? nella cerimonia, ci Sì, è sono limitata. meno aspetti perché è lì più limitata, visto che comunque è festivo. Il lutto stesso, la Shiva, è sempre valida. Cioè bisogna stare seduti, eccetera, tutti i 7 giorni, Sì. normale. Però nella funzione c'è appunto una limitazione perché proprio è festivo, sì. Andando avanti, quando si legge il Sefer a Mincha, perché nel giorno di digiuno c'è il Sefer, è sempre la parasha di Vayechal a Mincha, e c'è anche l'Haftarah che si dice nei giorni di digiuno a Mincha, per fare le chiamate al Sefer, si danno le chiamate al Sefer solamente a chi sta digiunando, anche se ci sono 20 persone al tempio. E ci sono 15 che digiunano, no, non è quindi la questione che dicevamo prima. È ovvio che ci sono almeno 6 che digiunano, se no non si. Però alla chiamata al Sefer del digiuno di Mincha, che se non fosse digiuno non ci sarebbe Sefer, non ci sarebbe sicuramente a Mincha, si dà solo a chi sta proprio digiunando ancora in quel momento. E vale solo per Michal, questo fatto della chiamata a chi digiuna? Sì. C'è scritto se c'è un Levi al Tempio, ma il Levi non sta digiunando. Sompa. Non lo si fa salire. Non lo si fa salire al Sefer. Così secondo Rav Ovadia Yosef. Così si impara. Andando avanti, l'Alaha insegna che questo che abbiamo visto finora riguarda il digiuno di Esther. Invece per ciò che riguarda la festa di Purim stessa, abbiamo anche alluso prima che ci sono alcuni luoghi in cui la festa di Purim si festeggia non nella data 14 del mese di Adar, ma nella data 15 del mese di Adar. Quali sono questi luoghi? La definizione di questi luoghi è una definizione molto particolare. Le città che sono fortificate, cioè hanno un muro intorno, ma non necessariamente ce l'hanno adesso, ce l'avevano ai tempi di Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun è quello che è stato il successore di Moshe Rabbeinu, che sotto la sua guida gli ebrei sono entrati in Eretz Israel. Le città che ai suoi tempi erano fortificate fanno Purim il giorno 15. Perché? Allora, innanzitutto, se noi torniamo a leggere la storia sulla Megillah, cosa è accaduto? Gli ebrei di tutte le province hanno lottato per la loro vita, per difendersi, nel giorno 13 di Adar, e il giorno 14 hanno riposato e hanno iniziato già a festeggiare il miracolo. Ecco perché il giorno del miracolo, cioè il giorno del festeggiamento, scusate, è il 14, e noi festeggiamo Purim il 14 di Adar. Nella Megillah è scritto che Esther è venuta davanti al re Ahasuerosh e le ha portato al re tutto il resoconto di quanto era accaduto finora. Il re ha detto: cosa vuoi ora? Che altro ti posso dare? Ha detto: nella città capitale di Shushan ancora ci sono molti nemici che ci vogliono fare del male. Allora il re ha detto: ok, continuate a lottare anche domani. E a Shushan hanno continuato questa guerra anche nel giorno 14. Non hanno riposato come nelle altre province. E hanno riposato solo il giorno 15. Ecco perché la festa nella città di Shushan era nel giorno 15. E di conseguenza, quando si è fissata la festa di Purim, si voleva dare rilievo a entrambe le situazioni, facendo sì che a Shushan stessa si festeggiasse il giorno in cui era l'anniversario della festa, quindi il 15, e nelle altre province il giorno in cui era l'anniversario della loro festa, cioè il 14. Ora è chiaro che ora non ci sono ebrei a Shushan, già da tantissimi secoli. Hanno voluto fare un ricordo anche del miracolo di Shushan, che rimanesse, e non si festeggi solamente a Shushan stessa. Come definire allora dove festeggiare il 14 e dove il 15? Allora i maestri di quell'epoca hanno detto: normalmente in qualsiasi città normale si festeggia il 14. E però in alcune città si festeggia il 15. Quali saranno? Visto che in quel momento Eretz Israele era quasi desolata, perché gli ebrei erano in esilio in quel momento. Non, era poco prima che hanno iniziato a ricostruire il secondo Beit HaMikdash. Era tra il primo e il secondo, era l'esilio babilonese. Per fare rilievo e dare rispetto a Eretz Israel, di tenere in mente l'onore di Eretz Israel, hanno detto: quali città festeggeranno il 15 Purim? Quelle città che, come Eretz Israel al primo momento in cui siamo entrati in Eretz Israel, cioè all'epoca di Yoshua bin Nun, sono città fortificate da quel momento. Perché quel momento? Perché quello è il momento in cui siamo entrati in Eretz Israel, quindi è una questione di rispetto nei confronti di Eretz Israel. Quelle città festeggeranno il 15. Scusa, ma queste Chiaro? Città, queste città erano città ebraiche. Se ci sono ebrei, erano città. Se ci sono ebrei in una città che dall'epoca di Yoshua era fortificata, Come allora lì si come Shushan. Allora lì si festeggia 15. Il si festeggia come Shushan, cioè il 15. Anche Gerico allora. Anche Gerico, bravissimo. Se ci sono ebrei che abitano a Gerico, devono festeggiare il 15. A Gerusalemme si festeggia il 15. Sì, scusa. Quindi non tanto perché quando è successo il fatto di Shushan, Shushan aveva stelle mura. No, ma perché, per rispetto di Erzisrael. Ecco, è stato preso un sì. Concetto molto più... Assolutamente. Ora, non solamente queste città, ma anche tutti i villaggi intorno alla città, cioè che sono o vicini, annessi, che si può arrivare entro circa un po' meno di un chilometro, si chiama un mil nella misura talmudica, oppure che possono vedere, cioè anche se sono più lontani, ma sono in alto su una collina, per esempio se c'è ci sono dei villaggi intorno a Gerusalemme che possono vedere il centro di Gerusalemme. Anche quelli fanno il 15. Tutti quelli che sono, diciamo, i satelliti, i sobborghi, che sono o entro una certa distanza abbastanza vicina, un po' meno di un chilometro, oppure anche se fossero un po' più lontani, ma vedono, cioè dai quali si può vedere Gerusalemme, vedere la città in cui si fa il 15, anche loro fanno il 15 stesso. Mentre tutte le altre città festeggiano Purim, come noi, il 14 di Adar. Sono tanti posti si festeggia il 15? Oggigiorno? No. E devi tornare nella storia. L'unica città che non è cinta dalle mura dai tempi di Josua e si festeggia il 15, qual è? Shushan stessa. Ah, non era cinta questa? Non ai tempi di Josua. Ah, ecco perché non serviva. Però è la città da cui parte questa cosa, no? Che lì hanno festeggiato il 15. Josua, innanzitutto, come dicevo, è per rispetto di Eretz Israel, dal momento che siamo entrati in Eretz Israel con Josua Bin Nun, quindi è quello il punto nella storia in cui si dice queste sono le città. Inoltre Josua è quello che ha lottato contro Amalek. E Haman è un discendente di Amalek. Quindi c'è anche questo legame qui. E quindi a Gerusalemme, appunto, come dicevamo, si legge la Megillah Yerushalayim il 15 di Adar, perché questa è una città che ai tempi di Josua già era fortificata. Usano a Yerushalayim oggi leggere la Megillah, quindi festeggiare Purim il 15 di Adar, anche quelle che sono fuori dalle mura, anche nei nuovi quartieri di Gerusalemme, che non sono nelle mura di una volta. Se sono legati alla città stessa senza interruzione, usano leggere come Gerusalemme, come Yerushalayim. E la Halakha ne parla moltissimo di questo aspetto, di come definirlo. E ci sono anche discussioni a riguardo, però l'usanza è questa. Vai. Cancella un pezzo di stanghetta. Mezza riga. Cancella mezza riga. Ah. Adesso non entriamo nel dettaglio specifico di quali quartieri possono essere fuori considerati da Gerusalemme e quali sono invece interni. Ci sono discussioni riguardo il quartiere di Ramot, se conoscete Ramot. A Gerusalemme. Ciao. Cioè sono quartieri che invece non vale. No, perché c'è. No, ormai sono considerati a livello municipale Gerusalemme, ma sono anche lontani e interrotti di distanza e non sempre vedono Gerusalemme. E quindi ci sono diverse discussioni. Ora, se una persona abita per esempio a Roma e quindi deve sentire la Megillah il 14 di Adar, e per qualsiasi motivo non ha sentito la Megillah, non ha letto la Megillah, allora c'è scritto che legge la Megillah il 15 di Adar, anche se non è in una città di quelle, ma senza dire la Berachah. Ok? Quindi può recuperare la lettura, ma senza dire la Berachah. Anche se c'è una fonte molto antica di un maestro romano, autore di Shibboleth Aleket, una autorità alachica molto importante, che dice che se una persona stava viaggiando, per esempio, non aveva una Megillah, e invece il 15 ha rinvenuto, ha trovato la possibilità di leggere la Megillah, secondo lui si dice, si legge la Megillah con la Berakha. Però visto che c'è dubbio in questa cosa, conclude sempre la stessa opera di Shibboleth Aleket, si legge ma senza Berakha. Ok? Quindi se è capitante in viaggio, in nave, qualcosa, non c'è la Megillah il 14, il 15 va a letto ma senza Berakha. Cosa succede se uno invece di Jerusalem o di una città in cui bisogna leggere la Megillah il 15 l'ha letto il 14, invece di leggere nel giorno in cui lui è obbligato? A posteriori esce l'obbligo, però se si è accorto, se era un errore, lo deve rileggere il 15. Se è uscito d'obbligo, lo deve comunque rileggere. Sì, è uscito d'obbligo a posteriori, non perché a priori lo può fare. Sì. Chi invece è di Gerusalemme, per esempio, e si trova nel giorno 14 di Adar, quindi per lui non sarebbe Purim in teoria, domani è Purim per lui, però si trova in un'altra città come Tel Aviv, dove lì è Purim il 14, ok? E si trova lì da quando è sorto il sole, quindi dall'inizio della giornata del 14, era già lì, è obbligato a fare tutto ciò che riguarda Purim come se fosse di Tel Aviv. E già dalla sera prima, se è lì, deve leggere la Megillah, se ha intenzione di rimanere anche domani. Perché cioè la definizione non è anagrafica, dove sei segnato nell'anagrafe e così festeggi Purim. E dove ti trovi per il giorno, cioè da quando sorge il sole, o prima dall'alba, prima della sorgere del sole. Ma se arriva a Tel Aviv, per esempio, dopo che è già l'alba, allora non segue le leggi di Purim di Tel Aviv, segue quelli di Jerusalem, perché ha intenzione di tornare a Jerusalem. Chi si sposta fra Gerusalemme, sì, e un'altra zona, vale il momento, deve tenere presente come regolarsi. Deve tenere presente dove sarà quando inizia la giornata. Quando inizia l'alba. L'alba alachica, diciamo. Esatto. Allora vuol dire, esce fuori una cosa molto anomala. Se uno che è residente a Jerusalem, ok? Quindi quando deve fare Purim il 15 di Adar. E parte e va a Tel Aviv la mattina del 14 di Adar, che per lui non è Purim, certo, è Purim solo a Tel Aviv o fuori da Gerusalem. Ed è già sorto il sole, è già giornata, quindi e rimane lì fino all'indomani mattina 15 di Adar, che è già sorto il sole. Lui non ha nessun obbligo di fare Purim in nessun posto. Perché? Quando è venuto a Tel Aviv, che era già il giorno del 14, non è rientrato nell'obbligo del 14 perché stava a Gerusalemme quando è sorto il sole. Sorto il sole. E il 14 non è Purim a Gerusalemme. Quando è sorto il sole del 15, stava ancora a Tel Aviv. E a Tel Aviv non è Purim il 15. Allora in teoria nessun obbligo si è attaccato a questa persona. Né pesce né carne. Né carne né pesce. Sì, teoricamente. Però lui adesso, stando sul personale, se lui insomma non ma può c'è il libero arbitrio, lo può fare o è vietato? Allora, ascoltate, per questo l'Alaha consiglia che chi vuole rientrare bene nelle mitzvot non deve fare questo. No, certo. Sì. Perché sì, certo può leggere la Megillah, ma se non è la stessa cosa fare la cosa quando sei obbligato o fare la cosa comunque anche quando sei esente. È più importante farlo quando sei obbligato. E più mitzvah, uno potrebbe pensare, se io non sono obbligato, sono esente e lo faccio comunque, oh, allora sono davvero un bravo ragazzo. Allora, è vero, sei un bravo ragazzo, però la mitzvah è più valida, ha più importanza quando la fai quando sei obbligato, non quando la fai quando sei esente e la fai comunque. Quindi è bene non mettersi in questa situazione. Ma uno è quello. Potrebbe questo è il punto. Il caso che uno non partire, se non partire in quegli orari, se può regolare il proprio viaggio, ok, Ma fai conto che magari ha un... Se non può, non può. No, Vedi avanti, magari a posteriori. viene a sapere che deve correre a te lui perché c'è Questo qualcuno che si non sta chiama, bene. sì, questo si chiama a posteriori. A priori non lo fai. Sì. A posteriori, cioè ti trovi in una Sì, situazione in cui non ne esatto. puoi uscire, allora in quel caso cosa fai? Leggi la Megillah il 15, ma senza Berakha. Senza Sì? me. Ecco, ok. Vabbè, non lo fai Ok? quest'anno a Gerusalemme. Dai, stai qua. Tocca non andare manco quest'anno. Tu sì, puoi Al andare contrario, a Polecchio. ok, ci sono anche molti altri Di dettagli, come può che essere il contrario, se parte? uno va da Tel Aviv, per esempio a Gerusalemme, ha fatto tutte le mitzvot il 14, ma poi il 15 mattina si trova a Gerusalemme, deve rifare Purim un'altra volta? L'Halakha sembra che non è così, non deve rifare Purim un'altra volta, perché ha già fatto tutte le mitzvot di Purim nella sua città, nel suo momento. Hai ragione, Raff. No, no. Bene, ok. E ci sono Ma molti dettagli su questo, ma visto che oggi, non siamo a Gerusalemme in questo momento, appunto, procediamo con l'altra halakhot. Dimmi, volevo chiedere, domanda. oggi come si sta comportando la popolazione di Gerusalemme, Così come stiamo di dicendo. Datim, voglio dire, questi qui? Evitano di viaggiare durante questi 2 giorni o Non è che fanno tu devi come noi? evitare di viaggiare, devi evitare di essere in un posto diverso quando scatta l'alba. Certo, Appunto, chi può cercano di evitarlo lo non evita, muoversi. certo. Magari tu abiti a Gerusalemme, Se aspetti. no rimangono a Tel Aviv. Se tu, per esempio, abiti a Gerusalemme, aspetti l'alba, quindi rientri in quella di Gerusalemme, poi vai a Tel Aviv per lavoro. Chi Esatto. va a Tel Aviv prima dell'alba? Comunque non tanti lo fanno. Ora, proseguiamo un E po'. prima di partire leggiamo la Megillah. No, se è il 14 non leggi la No, Megillah. quello che è l'esempio che hai fatto adesso. Aspetta, aspetta che sia No, ma l'alba. per rientrare nel 15 e poi ti ritroverai a Gerusalemme. Ok. Ah, è uno di Tel Aviv, sta Solo messo un'ultima dove? cosa Ah, uno di dico, Gerusalemme. signori, scusate, cioè, solo un'ultima cosa. Ci sono alcune città dove è dubbia la cosa se erano fortificate ai tempi di Josué o meno. E queste città usano a leggere la Megillah sia il 14 che il 15, però la Berakhah la fanno solamente il 14 e rifanno la Mitzvah anche il 15 perché è un Senza luogo la Berafa. senza la Berakhah, perché è un luogo in cui c'è il dubbio. Per esempio la città di Lod era una di queste città dove c'è il dubbio, anche Beersheba. la città di Teveria è dubbio. Se è così, la città antica di Yafo, Akko, Beersheba, Sfat. Ci sono Haifa, ci sono dei dubbi a riguardo. In questo caso si legge il 14. Si legge, si fa la mitzvah della Seudat Ma Purim, nel Raffi, Mishteh, sì. il giorno 14. Mishloach manot, inviare doni di cibo, il 14. Matanot leivyonim, doni di denaro ai poveri, il 14. E lettura della Megillah, chiaramente, 14 con Berakhah, e è bene che anche giorno 15 Senza facessero Berakhah. questo, almeno nella minima, il minimo stretto necessario, e la Megillah senza Senza Berakhah. Ok? come Sì, qual è la domanda? facevano a sapere che Sì? c'erano delle prove archeologiche, non lo so, per No, è una trovare questione di queste tradizione, non è una questione di prove della archeologiche. tradizione orale. Chi dice Lode era fortificata, allora si pensa o ci Perché? sono le prove? No, c'è un dubbio perché, alacicamente, visto che ci Come sono si fa a delle stabilire? tradizioni, il Questa città era così o quella era così? problema è che non è Perché sono stabilito, è città per questo che c'è il antiche. dubbio. Sì, perché sono antiche, che già esistevano all'epoca. Allora, ci sono delle fonti secondo le quali erano fortificate, altre invece che dicono di no. Per il dubbio devono comportarsi in questa maniera. Non è una cosa che si va Non era secondo prove certa la cosa. archeologiche, perché prove archeologiche non sono definitive. Appunto. Quasi, quasi mai sono definitive. Più scavi, più trovi. Eh certo. Ora, per ciò che riguarda in generale la lettura della Megillah, l'obbligo della lettura della Megillah, adesso non entriamo 14 o 15, ognuno dove ce l'ha, l'obbligo ce l'ha, ma come è definito l'obbligo stesso? È definito nella seguente maniera. Bisogna leggere la Megillah la sera in cui entra la festa di Purim e ripeterla la mattina, cioè il giorno successivo. l'orario di lettura della Megillah alla sera è tutta la notte, vuol dire chi non ha sentito la Megillah all'inizio di Purim, tutta la notte ancora ha l'obbligo di andare a cercare la possibilità di leggere o di sentire la Megillah, e l'orario della Megillah al giorno è tutto il giorno, vuol dire chi non ha potuto fare la mattina, ancora fino al tramonto ha l'obbligo di ascoltare o leggere la Megillah. Ok? Questo è l'obbligo della Megillah. In luogo, scusate, una situazione in cui non c'è la possibilità di leggere Megillah la sera. Per esempio, parliamo casi estremi però, è tempo di guerra, c'è il coprifuoco, non si può uscire dopo il tramonto, per dire, allora è meglio leggere Megillah in pubblico. Se non c'è questa possibilità, dopo che è già buio, è già entrata la festa, allora ci sarebbe la possibilità di anticipare un po' la lettura della Megillah in pubblico da un certo orario che si chiama Pelaga Mincha, è un orario alachico che viene è prima del tramonto ancora, è tra quello che si chiama Mincha Gedolah, cioè il primo orario di Mincha, e Mincha Ketana, è l'orario più indicato per Mincha, prima del tramonto, e in mezzo si chiama Plaga Mincha, la metà della Mincha, diciamo così. Questo orario è il primo orario in cui in casi estremi si può iniziare già a leggere la Megillah la vigilia di Purim, la sera prima. E se una persona non ha proprio avuto la possibilità, per causa di forza maggiore, di assistere o di leggere la Megillah la sera, quindi il primo obbligo, la lettura serale, non è che può recuperare leggendola domani due volte, non esiste questa cosa. Ha perso quella lettura, ovviamente deve comunque sentire la Megillah la mattina. E la mitzvah più bella della lettura, chiaramente ogni singolo è obbligato a sentire o leggere la Megillah, però è molto più bella la mitzvah fatta con grande pubblico, più pubblico possibile. Per questo motivo si annulla anche lo studio della Torah, cioè la yeshiva. Non si va avanti con gli studi normali, ma si interrompe per assistere alla lettura della Megillah in pubblico, anche se ci sono una yeshiva di 100 persone che stanno studiando la Torah, chiudono la yeshiva, vanno al tempio dove ci sono 200 persone e diventano 300 per aumentare più possibile il Rov Am, il bello della presenza comunitaria e del pubblico il più possibile. L'Alaha poi dice che anche quando c'era il Beit HaMikdash e i Kohanim erano al loro posto del servizio nel Beit HaMikdash, i Leviim erano al loro posto del servizio del Beit HaMikdash, comunque interrompevano tutto questo, andavano a sentire la Megillah in pubblico, con il pubblico più grande, perché c'è la mitzvah di Pirsum Hanes, il più possibile pubblicizzare il miracolo che si racconta nella Megillah. Chi è obbligato a sentire, a leggere la Megillah, sentire e leggere è uguale. Chi non può leggere la Megillah da solo, dalla pergamena originale, esce lo stesso obbligo sentendo da chi lo legge dalla pergamena, come quando si legge il Sefer. Esattamente. Ma chi è obbligato a fare questo? Tutti, uomini e donne. E per questo, anche se ci sono delle persone che non riescono a venire al Tempio, che siano uomini o donne, devono comunque leggere o sentire la Megillah. Quindi se possono far venire a casa qualcuno che legge la Megillah o in altro contesto, abbiamo sempre l'obbligo di sentire la Megillah, sia uomini che donne, perché tutti erano miracolati, tutti erano partecipanti e tutti sono stati salvati nel miracolo, e quindi tutti lo devono festeggiare. Sì, prego. Ma se c'è qualcuno che non ha possibilità, sta a casa, sta un posto isolato, non può sentire la Megillah letta da qualcuno, da un bambino, eccetera, però con diciamo, la tecnologia di oggi avrebbe la possibilità di sentirla registrata, perché chi l'ha registrata la legge dalla pergamena, eccetera. Allora, chi non ha possibilità di, proprio impossibilitato a sentire o a leggere la Megillah dalla pergamena stessa, cosa deve fare? Deve leggere la Megillah da un libro. Legge lui. Sì, da un libro. Cioè, se non c'è la pergamena, legge da un libro. Sì, no, dicevo, stampato. Se la deve leggere lui, non serve che non aiuta il fatto che la senta. No, è meglio la lettura. Se non abbia possibilità di leggere. Oh, allora, per questo dico. Se è impossibilitato a sentirlo dalla pergamena, lo sente o la legge dal libro. Lui. Se, uno che se qualcun altro lo legge dal libro, anche. Bene, certo. Se, se proprio non questo né quello, allora sì, se lo sente registrato non è uguale. Non, magari lo fa così per rientrare nel... Magari legge l'ebraico, vorrebbe fare... Sì, però non ha un valore di mitzvah, no, non credo. Sentire la Megillah registrata non ha valore di mitzvah. E che poteva essere registrata tempo fa. No, non cambia quando è registrata. Sicuramente è registrata prima. Ma... All'epoca non davano corso. Non c'è registrazione. Non c'entra con l'epoca. Non è reale. Esatto. E bisogna sentire la Megillah da chi è obbligato a leggerla. Cioè, se abbiamo un minorenne che sa leggere bene la Megillah dalla pergamena, comunque non fa uscire l'obbligo agli altri, perché tu puoi far uscire l'obbligo se tu stesso rientri nello stesso obbligo. Ok? Il minorenne ha l'obbligo del chinuch, di essere educato nelle mitzvot, che in realtà è un obbligo del suo genitore, ma non è un obbligo suo proprio. Ok, e chi ha la possibilità di avere una pergamena di Megillah, anche se non la sa leggere in pubblico con tutti i teamim, cioè i canti, le vocali corrette, eccetera, ma anche se segue la lettura della Megillah in pubblico, seguendo nella sua Megillah di pergamena, è meglio rispetto a seguire nella carta stampata, perché è come se anche lui stesso leggesse da una Megillah vera. Però chiaramente non tutti hanno questa possibilità, ma in alcuni luoghi lo si vede che molti arrivano al tempio con una propria Megillah scritta a mano sulla pergamena come la Megillah originale, perché anche se non lo leggono in pubblico ma seguono la lettura con quello, è già meglio rispetto a seguirlo nel libro stampato, perché è una lettura vera e propria nella Megillah. È bene che i bambini partecipino alla lettura della Megillah, come dicevamo, ma bambini molto piccoli che disturbano l'ascolto della Megillah, visto che è l'obbligo di sentire ogni parola della Megillah letta dalla pergamena, allora chi porta al tempio bambini molto piccoli che non possono assistere perché non riescono a seguire la lettura ancora e magari disturbano il pubblico, quello andrebbe evitato. Così la Halakha dice. È sempre grido, perché penso... A Teshua, al tempio di via Padova, quello sì. Che succederà. Ok. Allora, appunto, tu chiedevi riguardo la registrazione, una delle cose che sono riportate, chi sente la Megillah attraverso la radio, quindi è simile, che però è meglio forse perché non è registrazione, cioè... Non è diretto, ma è dal vivo, diciamo così. Comunque non si esce l'obbligo, anche se appunto è dal vivo. Sì. Non si esce l'obbligo. E che se uno sente le brachot dette sulla radio, non si risponde amen. Cioè non è considerato come sentire la cosa stessa, il telefono, la radio, eccetera. Perché non sente la voce stessa, sente diciamo il contatto elettrico che è creato dalla voce, eccetera. Al di là del fatto della Megillah, chi sente per caso esatto. Sentisse Berakot in questa forma, esatto. Sempre, tutto l'anno non deve rispondere. Sì, sì, sì. C'è discussione sul uso di un microfono. Cioè, che tu sei presente, però si usa un microfono. Alcuni dicono bisogna evitare proprio, perché è simile al discorso della radio, che tu senti non la voce diretta, ma quella amplificata dal... Altri dicono, altri sono più leggeri, e dicono che se si togliesse il microfono tu potresti comunque sentire, anche se non senti così bene, però se tu potresti sentire anche se si togliesse il microfono, allora è permesso sentirlo anche con il microfono, perché in quel caso il microfono è un aiuto in più, ma non... Ma non... se ci sono 300 persone che stanno lontani... Esatto, esatto, basta. Però se possibile è meglio evitare... sono andati là, poi se è possibile è meglio evitare questa cosa, ok? Ok. E colui che legge la Megillah la legge quando sta in piedi, per onore del Tzibur, dice le Berachot e legge la Megillah stando in piedi. E alcuni usano che anche il pubblico sta in piedi nel momento in cui si dicono le Berachot e la Megillah e poi si accomodano seduti per il momento della lettura. Altri invece rimangono seduti anche per le Berachot stesse. Ci sono, ognuno può comportarsi secondo l'usanza della sua usanza o del luogo in cui si trova. E molti usano che chi legge la Megillah è circondato, cioè ha a destra e a sinistra altre due persone sulla Teva per onore o aggiungere onore rispetto alla lettura della Megillah, che rimangono vicino a lui. E alcuni dicono che così come è vietato tenere il Sefer, la pergamena del Sefer a mani nude, bisognerebbe che non mettere le mani proprio sulla, tenere il Sefer con le mani nude. Alcuni dicono che la stessa cosa si applica anche alla Megillah, però in pratica molti non usano fare così e non si sta attenti a non toccare la Megillah a mani nude come per il Sefer. Se la Megillah cade per terra, non è come il Sefer che bisogna fare un digiuno, eccetera, però è bene riscattare il digiuno, tra virgolette, si chiama dare alla tzedakah, che sarebbe stato il valore del digiuno, cioè il valore di due pasti, dare in tzedakah per se cade la Megillah. E nel caso appunto qualcuno, come dicevamo prima, legge a bassa voce insieme a chi legge la Megillah, all'officiante, perché ha una Megillah vera di pergamena e la sta seguendo nella sua Megillah, secondo l'Alaha, lui ha il permesso di dire anche le Berachot della Megillah, visto che ha una Megillah vera e propria. Lui a bassa voce dice le Berachot insieme all'officiante, perché la legge poi dalla Megillah stessa, ovviamente a bassa voce per non disturbare tutto il pubblico. Ma ha il permesso di fare questo, ma sarebbe meglio se non lo facesse, se rispondesse amen con tutti quanti per rientrare nel pubblico, come dicevamo prima, la grande mitzvah di più grande pubblico possibile. E non, diciamo, così distinguersi in maniera distinta dal pubblico. E su questo anche ci sono usanze diverse, ognuno segue l'usanza del proprio luogo, della propria usanza. Prima di leggere la Megillah, l'officiante deve precisare e indicare che lui farà le Berachot per tutto il pubblico e tutto il pubblico risponde Amen. Appunto, tutti e due tengono, entrambi hanno in mente l'intenzione di uscire l'obbligo l'uno dall'altro. Perché quando si fa una mitzvah lo si fa con l'intenzione di farlo. Se una persona sta seguendo la lettura della Megillah non da una pergamena, da un libro stampato, e manca l'ascolto di una o due parole, o forse anche una frase intera che magari non è potuto sentire, magari si faceva un rumore per Haman, c'è un bambino vicino a lui, o quello che è, e l'obbligo è di sentire tutta la Megillah, allora lui può leggere quella parola dal libro stampato che ha, finché arriva addirittura alla maggioranza della Megillah. No? Che se tu prendi una parola che una parola dica hai mancato, ma l'hai letto nel libro, sei uscito l'obbligo, anche se non l'hai sentito dall'officiante che legge dalla Megillah stessa, dalla pergamena, finché arriva addirittura la maggioranza della Megillah. Ovviamente non arriva la maggioranza, perché la maggioranza la sente dal Chazan, dall'officiante, e quindi esce l'obbligo. Anche per la lettura. Bisognerebbe leggere la Megillah a priori con tutti i teamim, cioè con tutte le giuste intonazioni del canto, però se non c'è nessuno che conosce i teamim, ma sa leggere la Megillah senza i teamim, si esce l'obbligo anche leggendolo senza i tamim, però bisogna fare molta attenzione a scandire bene le parole e a concludere ogni frase dove conclude, perché se conclude una frase in mezzo, un'altra frase si inizia da un'altra parte, allora la cosa non ha proprio senso. E quando si legge bisogna fare molta attenzione a non saltare una parola, perché molti dei maestri sono dell'opinione che anche se si salta una sola parola dalla lettura della Megillah non si esce l'obbligo, e quindi bisogna cercare di scandire bene tutte le parole in modo tale che tutti possano sentire e uscire bene l'obbligo appunto della lettura della Megillah. Se c'è molto rumore, perché appunto si fa rumore per il nome di Aman eccetera, allora l'officiante deve aspettare che concluda il rumore e poi proseguire dalla parola che tutti, la prossima parola che tutti la potessero sentire. E per questo l'Alaha dice che siccome Purim si fa molta tzedakah e molti poveri girano per accogliere, o anche Gabaim, chi si occupa di fondi di tzedakah, girano per, non lo devono fare durante la lettura della Megillah. Uno sente la Megillah qui, poi va a fare tutto il giro di tutti i templi della città e chiedere elemosina o chiedere fondi per tzedakah eccetera, non lo deve fare quando leggono la Megillah, perché appunto distrae la gente dalla lettura. Bisogna fare attenzione a questa cosa in qualsiasi maniera di distrazione, anche se è una mitzvah come quella. Allora, ultima halakha di oggi: se un sefardita sente la Megillah con la pronuncia ashkenazita da una ashkenazita, o al contrario, una ashkenazita sente la Megillah con la pronuncia diversa che dalla sua, che è quella sefardita, o romana, o yemenita, esce l'obbligo o non esce l'obbligo? È certo che esce. L'halakha è che esce l'obbligo della mitzvah. Certo. Buona giornata a tutti. Brava. Procederemo se Dio vuole. Grazie.